Lascio la parola al dottor Luca Vellis che ci parlerà della comunicazione genitori-figli. Ok, e spengo le luci. Sì. Buonasera a tutti. Allora, io appunto mi chiamo Luca, sono psicologo, psicoterapeuta e mi occupo di prevalentemente adolescenza. Lavoro in un centro, l'associazione si chiama La Nostra Famiglia, e mi occupo di disabilità e di adolescenza, in più collaboro con un consultorio familiare. E da svariati anni parlo di comunicazione, soprattutto in situazioni dove si vedono appunto genitori di adolescenti e anche genitori di ragazzini, insomma. Eh sì, perché se no non si vede. Ok. Sì? Un po' sfocato, però vabbè. Ok. Allora, parlando di comunicazione, beh, intanto volevo farvi i miei complimenti perché siete tanti, e questo è per me motivo veramente di gioia. Quando vedo anche tanti papà e quando vedo persone motivate a, così, a capirci un po' di più sulla famiglia, sull'essere genitori soprattutto, per me è veramente motivo di gioia proprio, perché vedo spesso, incontro spesso tanti genitori. È brutto dire impreparati, no? Perché non è, essere genitori è qualcosa di più, però effettivamente molti genitori che pensano che basti avere dei figli per poter essere genitori, mentre in realtà così non è, e voi lo sapete bene, Soprattutto chi di voi ha figli preadolescenti o adolescenti, quanti ce ne sono di voi qua? Chi è che ha figli adolescenti? Quindi è un buon numero. Chi è che ha figli di 11, 12, 13 anni più o meno? Ecco, avete tutta la mia comprensione, perché è l'età peggiore questa qua, è veramente... C'è un mio collega psicologo che mi dice sempre che per fare una diagnosi psicologica i preadolescenti sono minchioni, e io credo che più o meno sia azzeccata la diagnosi psicologica, no? Proprio perché è una cosa che ci lascia spiazzati, no? Li vediamo in un certo modo e poi in un altro. Ma partiamo subito parlando di comunicazione. Allora, intanto, prima ancora di parlare di comunicazione, è importante dire che cosa? Che noi, la realtà attorno a noi, non possiamo fotografarla, noi la interpretiamo, noi sempre interpretiamo la realtà, quando andiamo in giro per strada, quando guardiamo la televisione, quando parliamo con i nostri familiari, quando siamo al lavoro. Immaginate un giorno entrate al lavoro e incontrate il vostro capo, lo salutate, il vostro capo non vi saluta. No, sarà capitato a voi, a qualcuno di voi, a molti credo, no? Di, magari non con il capo, però salutare qualcuno e questo non ti saluta. Allora, in una situazione come questa, quando si entra in ufficio e il capo non ti saluta, una persona può dire: mamma mia, cosa ho fatto? Cosa ho combinato ieri? Sarà mica perché stavo giocando a solitario in orario di lavoro? Sarà mica perché non ho fatto quel lavoro che mi aveva chiesto l'altro ieri e ancora non l'ho preparato? Mamma, cos'è che ho sbagliato? Uno potrebbe rispondere così. Un altro invece potrebbe pensare, ma come si permette questo qua? Solo perché il capo, ma guarda come fa l'altezzoso, guarda come non mi saluta, ma come si permette? E un altro semplicemente magari dice, boh, il capo avrà litigato con sua moglie. Quindi vedete che una stessa situazione può essere interpretata in maniera diversa da diverse persone. E questo da cosa dipende? Dipende un po' dalla nostra storia, dipende da come siamo noi. Ciascuno di noi ha un copione. Eric Berne, un medico canadese che ha fondato l'analisi transazionale, io sono analista transazionale, dice che ognuno di noi si porta alle spalle, dalla nascita, insomma, da quello che dal bagaglio che ha avuto anche dai propri genitori, si porta alle spalle un copione. Il copione che cos'è? Il copione è il modo in cui io vedo il mondo. Il modo in cui io vedo il mondo può essere un modo positivo, ma può essere anche molto deprivante per me. Perché se voi pensate a una persona che dice: Per essere amato io devo assolutamente essere simpatico a tutti e non posso essere antipatico a nessuno. Per lui questa vita sarà molto difficile, perché è molto difficile non essere antipatici a nessuno. Ok? Ora, interpretare la realtà, vedere la realtà, cominciando dal punto di vista percettivo, se voi notate anche dei semplici esempi, cosa vedete qua? Persone. Oppure? Come? Colonne. Qualcuno dice pezzi di scacchi. Qualcuno ha visto pezzi di scacchi? Ok? Quindi, a seconda, qualcuno vedrà una cosa e qualcuno ne vedrà un'altra. La cosa interessante è che non si può vedere nello stesso tempo tutte e due le cose. O si vedono le colonne o si vedono le persone. Le avete viste tutte le persone? Sì? No. Sono quelle nere le persone, eh? Sono le ombre. Ok? Allora, le colonne sono quelle bianche e le persone sono quelle scure. Questi sono i giochetti di noi psicologi per aumentare l'attenzione. Posso andare avanti? Sennò finiamo a mezzanotte. Ok, qui cosa vedete? Anche qui, una faccia. In realtà, se vedete bene, il cane che cos'è? La mano, il cane, non si capisce, A prima vista questa è una faccia di profilo, però in realtà sono anche due persone, ok? Questa è psicologia della percezione che può essere utilizzata anche in comunicazione, ok? Ci siete tutti, vedete tutti le due cose, Oppure un altro esempio qui, è una faccia o due? Allora, sono due, però se voi vi concentrate un attimo, si può vedere anche una faccia sola, Ok? Bisogna concentrarsi un attimo, Però poi, nel momento in cui dite, ecco, l'ho vista, perdete di vista le due facce. Ok? Ci siete? È chiaro? Vado avanti, E poi anche questo, Allora, questo è Don Chisciotte, La faccia di Don Chisciotte, però si vede anche che cosa? Se voi vedete, gli occhi sono due colletti. Le due persone sono Don Chisciotte e Sancho Panza, ok? Quindi vedete come uno stesso quadro, uno stesso disegno può essere anche visto in maniera diversa. E ciascuno di voi avrà visto prima, tornando all'esempio delle colonne prima, qualcuno avrà visto, ma le persone, si vedono, qualcuno invece avrà visto per prima le colonne, Quindi anche questo semplice esempio percettivo, dipende molto anche da noi, da quello che ci aspettiamo, perché noi costruiamo un pochettino il nostro quadro ambientale, no? Tendiamo a costruirlo. E quindi costruendo il nostro quadro ambientale, il nostro ambiente, è chiaro che possiamo interpretare una cosa piuttosto che un'altra. Dove vorrà andare a parare adesso, dite, questo qua? È la base della comunicazione, soprattutto quando si comunica con i figli adolescenti, perché i modi di vedere sono molto diversi certe volte. Allora, parlando di comunicazione, allora, una cosa fondamentale è che la comunicazione è fatta sia di contenuti, cioè quello che io vi sto dicendo, che anche di relazione. Io avrei potuto scegliere stasera di sedermi lì, no? Però a me piace di più stare giù, no? E questo è una cosa mia personale, no? Oppure il fatto che voi vedete che io continuo a camminare, lo faccio un po' per cercare di attirare la vostra attenzione, e un po' anche per tenere a bada la mia ansia, no? Perché da questa parte vedere così tante persone per me, nonostante tutto, è anche un po' fonte di ansia, no? Quindi io vi sto comunicando anche un pochettino di ansia, no? Quindi quando noi comunichiamo, da una parte c'è il contenuto sempre, però dall'altra la relazione. Si parla di comunicazione non verbale. Comunicazione non verbale avviene sia con i gesti che con le espressioni del volto, della faccia. E i comici in questo sono esperti, no? Nel senso che molto spesso una stessa cosa può essere detta in un modo oppure in un altro. Mi raccomando, stai attento quando dopo vai a scuola attraversi la strada. Mi raccomando, stai attento come attraversi la strada dopo. Allora, vedete che lo stesso contenuto implica due relazioni diverse. Che differenza c'è secondo voi? nella prima fiducia, eh? Nella prima diciamo c'è un'attenzione, nella seconda più una svalutazione, no? È una relazione, è come se dicesse: io so come sei fatto, fai attenzione perché so che sei sbadato, eh? C'è tutto questo dentro, ok? Ora, nello stesso tempo, quando noi ci approcciamo con gli altri, abbiamo anche una nostra comunicazione interna. Che cosa vuol dire? Comunicazione interna è quello che noi diciamo a noi stessi, magari non in maniera esplicita, non è che parliamo da soli, a volte anche, però, per esempio, non so, in una situazione come questa, un sorriso può nascondere sotto, per due avversari, in questo caso due avversari politici, può nascondere sotto un sacco di pensieri. Sì, ho capito, sì, tu dici così, però in realtà vuoi arrivare in vuoi arrivare là. Quante volte lo facciamo con i nostri figli, soprattutto i figli adolescenti, no? Cioè, quando ci chiedono una cosa, noi cerchiamo di capire dove vogliono arrivare, ok? E poi un altro aspetto che riguarda sempre le relazioni e la comunicazione è il fatto che le relazioni possono essere complementari o simmetriche. Cosa significa? Cioè, io posso avere una relazione da pari a pari, oppure posso avere una relazione non da pari, cioè da sopra a sotto, o da sotto a sopra, ok? Facciamo un esempio. Quando io gioco con mio figlio che mi rotolo sulla sabbia, quella è una relazione simmetrica, no? Perché stiamo giocando, ci stiamo comportando da amici, ok? Quando però gli dico: oh, adesso fai i compiti però, allora in quel caso la relazione è asimmetrica, è complementare. Però può anche succedere che io sono malato, ho 40 di febbre, mio figlio viene lì e mi dice: papà, per caso ho un bicchiere d'acqua? Sì, grazie, me lo porti per favore. Allora in quel caso la relazione è simmetrica al contrario, è asimmetrica al contrario, no? In quel caso noi siamo noi che abbiamo bisogno e nostro figlio in quel caso ci aiuta. Il genitore competente, secondo voi, è il genitore che ha una relazione complementare o simmetrica? Allora, ho sentito qualcuno che ha detto entrambe. Siete d'accordo? Silenzio. Assolutamente sì. Allora, è importante, la competenza del genitore è proprio la capacità di avere l'elasticità di capire, questo è difficilissimo in certi casi, di capire quando è il caso di avere una relazione simmetrica e quando invece è il caso di avere una relazione di tipo complementare. Molto spesso mi è capitato giusto settimana scorsa, c'era un genitore e io gli ho fatto questa domanda: secondo lei, questo è un genitore di una ragazzina che ha un problema di dipendenza genitoriale, no? Quindi ha una fobia scolare, ogni mattina prima di andare a scuola piange, non vuole andare, eccetera, però non ha 6 anni, ne ha 12. Quindi, chiedendo al papà, così, un genitore, un bravo genitore, secondo lei com'è? E lui, senza pensare, dice: un amico. Io voglio essere amico di mia figlia perché comunque mi rendo conto che una relazione di questo tipo, una relazione di amicizia è importante, perché così se io mi approccio in questo modo lei si può aprire, può dirmi le cose, eccetera, no? C'è un grosso rischio però dietro questo tipo di atteggiamento. E il rischio è quello che la ragazzina, in questo caso, comunque il ragazzino non abbia limiti, ok? È una cosa che è molto importante, soprattutto in un'età come quella dagli 11 anni in su, la preadolescenza, l'adolescenza, è la capacità del genitore di essere elastico, cioè di comprendere che ci sono momenti in cui, ok, io posso stare con te e possiamo anche prenderci in giro, però ci sono momenti in cui no, in cui ci sono dei limiti. E i figli sono molto abili con noi in questo, cioè loro ci testano, no? Ci dicono, non esplicitamente, non consciamente, è come se loro cercassero di, come se noi fossimo degli alberi e loro tentano di sradicarci, no? E noi dobbiamo mostrare proprio in questo test di avere le radici, questo vuol dire dare limiti, ok? Io so che la mia collega vi ha parlato del crash test, giusto? La Mara, non vi ricordate? Ho sentito io. Ecco, il crash test comunque è la stessa cosa, eh? Cioè, come se loro andassero contro di noi, e noi dobbiamo mostrare di essere comunque stabili, come genitori. Quindi da questo punto di vista è importante dare i limiti. Relazioni complementari e simmetriche. Ora, nell'adolescenza, soprattutto nell'adolescenza, chi si trasforma non è solo nostro figlio, ovviamente, ma siamo anche noi. E quindi voi provate a pensare, chi ha avuto figli piccoli un po' di tempo fa, com'era la vita, com'era stare a tavola, Sara, o com'era anche semplicemente le notti. Cioè, io mi ricordo la mia seconda. Quando era piccolina si svegliava 12 volte a notte, alla fine io e mia moglie dovevamo fare i turni, no? E guardando al passato io dicevo, fissa, ma come facevo? Quindi da questo punto di vista anche la famiglia si trasforma, trasforma le proprie energie. Succede soprattutto, ecco, diciamo, non solo dall'adolescenza, ma anche prima, no? Che ci siano delle figure caratteristiche, io adesso un po' ve le descrivo, sono chiaramente figure estreme, no? In cui magari ognuno di noi si è immerso, no? Quelli che vengono chiamati gli ultragenitori, no? Quelli i genitori che in qualche modo fanno fatica a far sì che il figlio esprima piano piano una propria autonomia. Maria Teresa Zattoni, che è una pedagogista famosa, insomma, così appunto li chiama ultragenitori, e li descrive molto bene, no? Sono intanto i genitori elicottero, cosiddetti. Cosa sono i genitori elicottero, secondo voi? Non proprio che vogliono pilotare i figli, sono quei genitori che vogliono controllare dall'alto i figli e vogliono sempre sapere dove sono, vogliono sempre controllare e in qualche modo prevenire eventuali inciampi dei propri figli. Genitori elicottero sono quei genitori che fanno fatica a tollerare delle frustrazioni, diciamo, da parte dei loro figli, no? E negli ultimi anni si parla tanto di soprattutto con l'avvento degli strumenti informatici, della tecnologia, così, di un nuovo cordone ombelicale, no? Che i nostri figli hanno. Sapete qual è? Il cellulare, eh? Ok? Io ho una figlia di 6 anni e ci sono sue compagne di classe, compagni di classe che hanno già il cellulare. E parlando con i genitori mi dicono, sì, no, io mi sento tranquillo io, ma io voglio che abbia il cellulare. Quindi da una parte ci sono, ecco, i cosiddetti genitori elicottero. Questi genitori invece chi sono? Scopritelo voi, dai. I papà che hanno le figlie. Fantastico. Sì, giusto. Allora, questo è il genitore. Lei ha una figlia? Lei ha figlie? Chi è che ha parlato? Piccola, ok. Allora. Ok, questa è la figlia. Al bazooka. Allora, diceva, questo qua è la figlia piccola, quello con la figlia adolescente c'ha il bazooka. Beh, probabilmente è vero. Io ho 3 figlie e quindi capisco perfettamente. E già mi chiedo quando saranno adolescenti, il via vai di fidanzati in casa sarà una cosa pazzesca, però insomma. Comunque, il genitore guardia del corpo è quel genitore che, quando il figlio prende una nota, per esempio, va lui a giustificarlo dal professore, no? Quello che lo difende davanti a tutti. È quello che, quando il figlio gioca a calcio e non gioca abbastanza, va dall'allenatore a chiedere spiegazioni. È quello che, quando succede qualcosa, quando c'è un litigio con un compagno, va lui a cercare di capire cosa è successo e cercare di. Allora, cosa è successo? Guarda che però c'ha ragione lui, eh? Cioè, così. Okay? E guardate che queste figure. Cioè, io ve le racconto così, ma quando dico il calcio e il litigio sono tutte storie vere, cioè le prendo da dei colloqui con genitori. Il genitore guardia del corpo è quel genitore che non accetta che il figlio perda, non accetta che il figlio in qualche modo sia indifeso, no? E allora lo difende lui. Se si mette lui nella posizione di difenderlo. Oppure abbiamo anche, vabbè, questo è abbastanza eloquente, no? Il genitore che interviene economicamente, no? Faccio tutto io, non ti preoccupare, ci penso io. Non hai bisogno di far sacrifici, non hai bisogno di privarti di qualche cosa, ci penso io a tutto. Ok? Questo il genitore Superman, eh? Questo è il genitore che in qualche modo racchiude tutte queste caratteristiche, eh? Cosa ci sta dietro questo tipo di genitore? Questo è un genitore che dice, tu non hai neanche bisogno di chiedere, ci penso io. È il genitore iperprotettivo, il genitore che comunque vuole esserci sempre. Però tenete conto che dietro ogni iperprotezione, dietro ogni simbiosi, perché si può parlare proprio di simbiosi in questo senso, c'è una svalutazione. Dietro ogni simbiosi c'è sempre una svalutazione, perché è come se io dicessi, tu non puoi fare a meno di me, senza di me comunque non sei niente. E il figlio, da parte sua, cresce dicendo, è vero, io non posso fare a meno di te, non mi posso staccare da te. Ok? Caso estremo. E poi alla fine, forse il più pericoloso di tutti, è il genitore falco. Il genitore falco è quello che fa carte false pur di far avere il posto fisso al figlio, per esempio. Che comunque... a lui non interessa che degli altri, il figlio comunque deve passare davanti. Questo è il cosiddetto genitore falco, quello delle raccomandazioni, eccetera. Ora, ecco, gli ultragenitori in qualche modo ci fanno richiamare un po' quella che è l'adolescenza, no? E al fatto che molto spesso il genitore, noi genitori, quando abbiamo figli che cominciano ad avere l'età dell'adolescenza, appunto 12, 13, 14 anni, molto spesso una cosa importante che devono fare, come, proprio come autoriflessione, è avere un atteggiamento cosiddetto antropologico. Cosa significa? È vero, incazzarsi con il figlio, i litigi e tutto, no? Però avere anche un atteggiamento di curiosità, cioè cosa gli sta succedendo? Avere anche un atteggiamento curioso, no? Un atteggiamento di una persona che dice, caspita, però guarda qui, guarda com'è cambiato, guarda com'è bella anche questa cosa che sta succedendo, no? Che sta succedendo in lui, ma che sta succedendo anche in me e che sta succedendo nella nostra coppia, perché poi la trasformazione riguarda anche la coppia genitoriale. E da questo punto di vista il cambiamento è proprio una grazia, no? Nel senso che vedere il figlio che cambia, vedere le trasformazioni anche nelle fotografie è veramente deve essere per noi oggetto di stupore, eh? Io, pensando proprio al cambiamento mio, avevo in mente, credo che molti di voi siano più o meno coetanei miei, no? Io mi ricordo che quando ero ragazzino vedevo La casa nella prateria e c'era Nelly Olleson, che era quella che faceva la cattiva, vi ricordate? Non so se qualcuno di voi l'ha visto. E poi quando l'ho vista così cambiata in foto, no, ho detto, ma pensa te, oh, guarda com'è cambiata. E io me la ricordavo, cioè, tutta... Ed è un po' quello che succede anche ai nostri figli, che succede anche a noi, no? Quindi avere un atteggiamento di stupore nei confronti proprio di questo cambiamento è la base, veramente, per poter approcciare, per poter avere proprio un approccio creativo, un approccio positivo nei confronti di quello che succede e della nostra relazione con i nostri figli. Ok? Ecco, una cosa che mi sono dimenticato di dire, poi sicuramente se vorrete farmi domande, però interrompetemi pure se, mentre parlo, se avete qualcosa da aggiungere, da dire, non c'è assolutamente problema. Ora, è importante, quando parliamo di adolescenza, no? Dire qual è lo scopo, alla fine, del mio educare mio figlio. Cioè, io che cosa voglio ottenere, no? Io ogni tanto me lo chiedo. Cioè, vabbè, io gli dico non devi fare così, devi fare in questo modo, parlo da genitore adesso, però alla fine credo che l'obiettivo per noi genitori sia farli arrivare a una meta, no? Farli arrivare da qualche parte, no? E io credo che questa parte sia la capacità di amare. E la capacità di amare e di essere amati comporta comunque una riflessione anche su di noi genitori, no? Nel senso che voi sapete benissimo che parlare ai nostri figli ha un valore, ma ha molto più valore far vedere a loro la nostra vita. E allora una cosa importante che noi dobbiamo chiederci quando siamo tutti i giorni con i nostri figli è: ma io come sto amando? Io come gli sto mostrando che amo la vita, che amo la mia famiglia, che amo la persona che è vicino a me? Questo credo che sia una cosa molto importante, una cosa da chiedersi e una cosa non scontata, soprattutto nei momenti di conflitto. Voi avete visto questo film? Si intitola Genitori e figli, agitare bene prima dell'uso. E ci sono situazioni conflittuali molto, molto pesanti, no? In questa situazione, per esempio, c'è il figlio che vuole partecipare alle selezioni del Grande Fratello, no? Mentre il genitore dice, il genitore è un insegnante, no? Uno di quelli colti, una persona che non guarda quasi neanche la televisione, legge e basta, no? Ma il Grande Fratello fa schifo, ma io non posso pensare che tu vai a vedere il Grande Fratello, vai a fare le selezioni. E lui dice, ma questa è la mia vita, papà, ma tu non mi hai mai capito. Così, ok, queste sono... È un classico conflitto, no? In cui proprio le due generazioni non riescono a venire ad avere un momento di approccio, insomma, di unione. Okay? Allora, in una situazione di questo tipo, ha senso chiedersi, ok, io ho fatto questa strada, ma voglio che mio figlio, mia figlia, raggiunga la meta che ho raggiunto io, ma deve per forza raggiungerla facendo la strada che ho fatto io? Questo credo che sia un compito difficilissimo per noi genitori, no? Cioè accettare che loro arrivino alla meta, cioè arrivare dove siamo arrivati noi, però anche per strade diverse, insomma, no? Per un'altra strada. E questa strada può essere anche quella del Grande Fratello? Forse sì, può darsi, perché no? Ora, il fatto che noi appunto ci chiediamo l'amare, la capacità di amare, come sto amando, riguarda proprio la nostra relazione di coppia, nel senso che molto spesso e tante volte anche nei colloqui così io vedo genitori che sono molto, io mi ricordo una mamma che diceva noi ci siamo annullati perché comunque con due, tre figli, a volte anche con un figlio, così, no? Però non esiste più nessuna possibilità di avere dei momenti per noi, no? Ecco, io credo che il fatto di avere un momento e una particolare attenzione anche alla relazione di coppia sia salutare non solo per noi ma anche per i nostri figli, perché noi gli insegniamo a loro a cosa vuol dire avere un rapporto di coppia, avere una relazione, cosa vuol dire amarsi anche facendo concretamente una vita di coppia, quindi è importante anche questo. E poi anche la capacità di stupirsi, no? Quello che dicevo un pochettino prima, è importante essere capaci tutti i giorni di guardare anche con stupore, non solo con rabbia, con riprovazione, quello che succede a nostro figlio, no? Però anche con stupore, quindi cercando di vedere la realtà non solo con la nostra, con il nostro modo di vedere, con il nostro, la nostra modalità di interpretare la realtà. Vi ricordate all'inizio per la percezione? Questo è molto importante. Ok, allora adesso partiamo concretamente con il discorso comunicativo. Ora, quando si parla di comunicazione con i nostri figli, La prima cosa è l'ascolto. Essere capaci di ascoltare non è sempre semplice, soprattutto in situazioni di conflitto. Proprio perché quando noi ascoltiamo un'altra persona, il rischio è sempre che noi percepiamo in maniera selettiva una parte del discorso e non percepiamo tutto il resto. Questa è una cosa che spesso viene fatta da chi ascolta, no? Cioè io prendo una parte di quello che tu mi dici e non prendo tutto il resto. E questo dipende da come sono io, il mio stato emotivo del momento. Quindi il rischio proprio quando si ascolta è che, vabbè, da una parte ci sono le differenze di carattere, così, no? Ma c'è anche la percezione selettiva, no? Il fatto che comunque io da una parte ascolto solo una cosa, da una parte c'ho anche una mia comunicazione interna, no? Cioè penso, sì, tu adesso mi stai dicendo così perché in realtà domani vuoi uscire con la tua ragazza e allora poi tornerai tardi, così, no? Tutte queste cose che intanto io penso, questa è proprio la comunicazione interna. Allora, in psicologia si dice atteggiamento, diciamo, neutro, no? Cosa vuol dire? Che prima di dare un giudizio, prima di dare una risposta, mi devo esercitare ad aspettare, Quindi ascolto quello che mi viene detto, ascolto quello che mi viene detto e cerco di sentire tutto quello che mi viene detto, e nello stesso tempo senza avere degli atti impulsivi, no? Tipo rispondere prima senza aspettare o parlare tra me e me, eccetera, no? Questa è una cosa che aiuta molto, non solo me, ma la persona che sta comunicando, ok? Che sta comunicando con me, in questo caso mio figlio. Ora, durante l'ascolto è importante quindi far sì che l'altra persona, in questo caso mio figlio, abbia lo spazio adeguato per poter parlare, sia in situazioni appunto in cui mio figlio si vuole confidare con me, mi vuole dire delle cose, eccetera, no? Sia anche in situazioni in cui magari mi accusa, mi dice cose che a me non vanno bene, no? Uno strumento che a volte si utilizza, che è uno strumento tipico della psicoterapia, è la riformulazione. Cosa vuol dire? L'altra persona mi dice una frase e io gliela rispecchio. Concretamente, praticamente gli ripeto quello che lui mi dice. Gli dico la stessa cosa che lui mi ha detto, però con altre parole. E questo aiuta ad aumentare il volume di comunicazione da parte dell'altra persona, no? Vi faccio un esempio. Sai, mamma, oggi sono tornato da scuola e nessuno dei miei compagni ha voluto fare la strada insieme a me. La risposta della mamma potrebbe essere: caspita, immagino che fare una cosa di questo tipo, tornare senza nessuno, per te abbia significato qualcosa. Oppure, caspita, non credo che sia facile per te tornare e fare una strada da solo senza nessuno, per esempio, no? In realtà io cosa ho aggiunto? Non ho aggiunto praticamente nulla, però una frase di questo tipo fa sì che l'altra persona dica: eh sì, infatti, perché? E continua il discorso. Ok, la riformulazione è un'apertura, mentre la domanda non lo è. Una persona potrebbe rispondere: ah sì, come mai? Ok, allora la domanda, in genere si dice chi domanda comanda. Cosa vuol dire? Che se io faccio una domanda, comunque indirizzo l'altra persona a dire quello che voglio io. Se io rispecchio quello che lui mi dice, se io ripeto, riformulo quello che lui mi dice, da una parte io mi accerto di aver capito, no? È vero? È così? Quello che mi dice è questo? Da un'altra parte aiuto lui ad aumentare il flusso di comunicazione. Questo è molto importante quando la persona si deve confidare, no? Quando dice una cosa, non lo so, anche comunica delle angosce. Molto spesso quando ci sono delle angosce, non lo so, sono preoccupato per il compito di domani, mi sa che non è andato bene, così, no? L'ansia viene anche a noi. Porca, magari è andato male davvero. Ma perché dici così? Cos'è che hai sbagliato? Okay? Ci viene da fare delle domande, no? Invece, quando sentiamo l'ansia, il disagio da parte dell'altra persona, è importante evitare le domande, ma fare sì che con una riformulazione, appunto, noi rispecchiamo l'altra persona. Questa è una grande dimostrazione di empatia, mettere da parte le nostre ansie e aprire all'altra persona. Questo è molto importante, una delle cose chiave di questa sera, è importante che ve la ricordiate. Ecco, poi anche verbalizzare gli stati d'animo, che cosa vuol dire? Era un po' quello che dicevo prima, no? Quando io ho rispecchiato, ho anche verbalizzato uno stato d'animo, perché ho detto, caspita, immagino come ti sarai sentito. In realtà non l'ho detto, no? L'ho solo immaginato e ho lasciato così la parola all'altra persona. Come si è sentita l'altra persona? Non sono stato direttivo, no? Però verbalizzare uno stato d'animo significa anche dire, caspita, io però sento che in questa situazione magari sei un po' triste, oppure io mi sento così a sentire questa cosa che mi dici. Questo è molto importante, ne parliamo fra un po' in maniera più dettagliata, di questo tipo di comunicazione in cui si verbalizzano gli stati d'animo. Che cosa invece non fare? Anche questo è molto importante. Dare subito consigli. Settimana scorsa una mamma mi ha detto, ma come non dare consigli? Noi genitori siamo fatti per quello, dobbiamo dare consigli. E certo che dobbiamo dare consigli, ma non subito. A volte i nostri figli hanno bisogno semplicemente di essere ascoltati, non hanno bisogno che noi diamo una risposta a quello che loro ci dicono. Quindi è importante sapere aspettare e lasciare da parte la nostra ansia. Oppure anche minimizzare, anche questo è una cosa importante, no? Io mi ricordo per esempio che l'anno scorso ho fatto un intervento chirurgico e mi arrabbiavo da morire quando le persone mi dicevano, ma no dai, vedrai che andrà tutto bene, ma sì, stai tranquillo, ma va, ma figurati, è un'anestesia, dai, cosa vuoi che succeda? Ho capito, però, cioè, minimizzare equivale molto spesso ad allontanare, no? Cioè, quando uno minimizza, è come se volesse allontanare il problema da sé. Non so se vi è mai capitato, no? Cioè, quando voi comunicate qualcosa, la persona davanti a voi cerca di minimizzare, magari anche per volere tranquillizzarvi, si sente proprio una distanza, un distacco, Quindi è molto importante a volte avere il coraggio di dire, caspita, sono d'accordo con te, effettivamente quello che dici è vero, cioè è preoccupante, no? Ci si sente molto più accolti da una cosa di questo tipo, Oppure fare diagnosi, ma non è che sei depressa, ma non è che andiamo dal dottore e ci facciamo dare magari un antidepressivo, ok? Perché anche questo succede, Moralizzare, vabbè, lo sapete, no? Cioè, ma no, non è giusto che tu però la pensi così, Queste sono tutte cose che possono essere fatte però in un secondo momento, Ok? Perché magari davvero il figlio o la figlia ha una diagnosi di depressione, per carità, però fare diagnosi subito significa interrompere il discorso, ok? Ora, cosa sono i riconoscimenti? Tutti noi abbiamo bisogno di riconoscimenti, Quando siamo con i nostri figli, continuamente noi diamo loro dei riconoscimenti. Che cos'è il riconoscimento? Il riconoscimento è dare un giudizio, dare un valore a quello che l'altra persona in questo momento è per me. Ci sono riconoscimenti che possono essere fatti sul fare, no? Cioè io do un giudizio su come ti comporti in questo momento, oppure sull'essere, io do un giudizio su come sei. E poi possono essere positivi e negativi. Ci possono essere riconoscimenti positivi o riconoscimenti negativi. Quindi un riconoscimento condizionato è sul fare, no? Se io voglio fare un riconoscimento sul fare positivo, cosa dico? Ditemelo voi. Giudizio. Dico qualcosa a mio figlio su come si è comportato. Positivo. Come? Hai fatto bene, hai lavorato bene, hai lavato bene i piatti, hai sparecchiato la tavola, ok? Hai fatto questo lavoro molto bene, ok? Quindi un riconoscimento positivo condizionato è, per esempio, oggi hai sistemato la tua camera molto bene, questo è un riconoscimento positivo sul fare, sul fare, su qualcosa che ha fatto, Ho sentito qualche risata perché probabilmente equivale a fantascienza per qualcuno, però ho frequentato case in cui le camerette effettivamente non potevano essere neanche percorse a piedi, perché erano abbastanza... Ok, e invece un riconoscimento sull'essere positivo? ti sei comportato bene? Sei stato coraggioso? Allora, ti sei comportato bene sul fare, perché non sul comportamento. Sei stato coraggioso e sull'essere, ok? Facciamo un altro esempio. Allora, oggi non ti sei comportato bene a pranzo. Questo è un riconoscimento negativo sul fare, per esempio, ok? Perché quando io faccio un riconoscimento sul fare, lo posso fare sia positivo che negativo. Mentre invece sull'essere, sei un ragazzo veramente in gamba, ok? Allora, in questo caso io sto dando un giudizio a mio figlio su com'è, positivo. Adesso proviamo a fare questo esercizio, un riconoscimento negativo sull'essere. Sei cattivo? Oppure? Sei scemo? Sentito lì? Ah, ok. Ok. Oppure? Non sei furbo? Ok, sì. Allora, adesso vediamo un esempio. Sei proprio uno stupido. Io ho in mente un papà, anzi una mamma, che diceva continuamente a suo figlio: sei un fallito proprio come tuo padre. E vi assicuro che non è facile elaborare e digerire una cosa di questo tipo. Okay. Allora, adesso vi faccio questa domanda. Secondo voi, l'area della crescita, cioè l'area che fa crescere il nostro figlio, dov'è lì? Quali sono i riconoscimenti che fanno crescere e quelli che non fanno crescere? Allora, i riconoscimenti condizionati fanno crescere, quelli incondizionati? Tutti? Beh, se il ragazzo veramente è in gamba, ok, tenete conto di questa cosa. L'area della crescita riguarda 1, 2 e 3. L'ultimo in basso a destra non fa crescere mai. Ok? Cioè, dare un riconoscimento negativo sull'essere è una condanna. Cioè, un conto è dire hai fatto una schifezza. Un conto è dire sei una schifezza. Ok? Cioè, il messaggio è completamente diverso. E molto spesso è importante anche riflettere su come comunichiamo i nostri figli. Un mese fa c'era una mamma che diceva: sì, vabbè, ma io non posso sempre stare qui a pensare a come devo parlare, che non devo dire, che devo fare, così, no? Allora, io quando è dagli anni 90 che parlo di comunicazione ai genitori, no? E negli anni 90 non ero ancora sposato e dicevo: mi però, forse effettivamente c'è ragione. Cioè, non deve essere facile con la famiglia, così. Poi mi sono sposato e ho detto: beh, però non ho ancora figli. Cioè, poi ho cominciato ad avere figli, e insomma, adesso che ho figli anch'io, mi rendo conto che sono palle. Perché comunque è vero, è difficile inizialmente, però si può fare ed è importante. E se voi siete qui stasera è anche perché volete questa cosa, no? Cioè, perché questa cosa si può fare, no? Io ho in mente sempre le parole di un grande arcivescovo che è il Cardinal Martini, no? Per un altro aspetto, lui diceva questo, parlava degli esercizi spirituali. Lui diceva: non si può pensare che la preghiera sia una cosa così, che viene dal cuore. Cioè, a volte ci sono anche gli esercizi spirituali. Che cosa ci sono? Negli esercizi spirituali uno si esercita, non c'è niente di male. Io faccio esercizio nella preghiera, poi la spontaneità verrà dopo. E questo funziona anche per la comunicazione. A volte io posso dire: caspita, però mi costa pensare a come devo comunicare con mio figlio. Però poi questa cosa, vi assicuro, che viene spontanea e soprattutto crea un circolo virtuoso. Cioè, se io comunico in un certo modo, mio figlio impara a comunicare nello stesso modo. Quindi abbiamo anche una grossa responsabilità da questo punto di vista, capite? Ecco. Allora, stasera potete dimenticarvi tutto quello che vi ho detto, ma non mi potete dimenticare questo, che è proprio il cuore della comunicazione. Quindi fate attenzione a quello che sto per dire. Allora, la comunicazione descrittiva e rappresentativa, che cosa vuol dire? Allora, nella comunicazione descrittiva io parlo all'altra persona, in questo caso mio figlio, cercando di evitare interpretazioni. cioè di non interpretare, ma di descrivere la realtà utilizzando i miei sensi. Cioè io vedo questo e sento questo. È impossibile fotografarla, ve l'ho detto prima, no? Però è possibile dire, ascolta, io vedo che c'è questo, io sento che c'è questo, ok? Quindi cercare di evitare le interpretazioni. Qual è il contrario, qual è secondo voi il contrario della comunicazione descrittiva? L'esatto contrario. Settimana scorsa una persona mi ha detto rappresentativa, no, se no sarebbe troppo facile. Soggettiva, la comunicazione è già soggettiva, cioè quando io, come? Interpretativa, cioè io quando interpreto. Allora, la lettura del pensiero, che cos'è la lettura del pensiero? È quando una persona non mi dice niente, ma io interpreto quello che lui sta pensando. Questo nella comunicazione di coppia, nelle coppie avviene tantissimo. Sì, ma tu mi dici così, però intanto tu stai pensando che mia mamma ha sbagliato, così, ok? Questo succede tante volte. Poi, per carità, a volte ci si prende, però, attenzione, Allora, ci sono persone che riescono a conoscono così bene il proprio marito, il proprio figlio, da chiapparci il 70%, però c'è comunque un 30%. Io ho in mente delle situazioni in cui mia moglie mi dice, ma sì, ma tu però hai fatto così perché in realtà ce l'avevi con me, non hai sparecchiato perché volevi che sparecchiassi io perché ieri non ho sparecchiato. Ma no, ma guarda che assolutamente, ma non è passato neanche per la testa. Non so se mi è mai capitato, però a volte succede così, no? L'interpretazione, interpretare quello che c'è che l'altro secondo noi sta pensando. Oggi a tavola ti sei seduta e non hai detto una parola fino alla frutta. Allora, secondo voi questa è una frase interpretativa o descrittiva? È descrittiva, perché io in questo caso sto descrivendo quello che è successo. Perché non mi ascolti invece di pensare sempre al calcio, alla PlayStation? Allora, questa secondo voi è interpretativa o descrittiva? Allora, questa è interpretativa, Perché non mi ascolti, è descrittiva o interpretativa? Descrittiva. Ma chi lo sa? Magari mio figlio mentre gioca alla PlayStation mi sta ascoltando, Ok? Non è scontato, ok? Io adesso sto dicendo che tu non mi stai ascoltando, Però magari in realtà mi hai ascoltato. Mi viene in mente un insegnante, perché io ho anche i colloqui con gli insegnanti, di un ragazzino che costantemente durante le lezioni faceva il sudoku. Allora mi dice, io non ce la faccio più, questo ragazzino fa il sudoku e poi però quando è finita la lezione e gli chiedo le cose me le dice, è incredibile sta cosa e non hai neanche bisogno di studiare. Chiaro che non è bello fare il sudoku durante la lezione, no? Però questo ragazzino era capace di ascoltare incredibilmente quello che diceva l'insegnante delle medie, mentre faceva il sudoku. Un ragazzino con problemi, ovviamente, no? Con un disturbo della condotta, però comunque aveva questa grandissima capacità. Allora, la comunicazione rappresentativa, è chiaro cos'è la comunicazione descrittiva? Sì? Allora, comunicare in maniera rappresentativa, invece, cosa vuol dire? Ne ho accennato prima. Significa comunicare con la pancia. Cosa vuol dire? Cioè che io, quando dico una cosa, ci metto anche quello che sento, quello che provo in questo momento. E questo può essere fatto sia per sentimenti, per emozioni piacevoli, che anche per sentimenti e emozioni spiacevoli. Perché io quando comunico in maniera rappresentativa posso anche dire, guarda, io in questo momento non sto bene, in questo momento non mi piace quello che sto provando. Okay? Perché è importante? Perché è importante, secondo voi, esprimere i sentimenti mentre si comunica con l'altra persona, soprattutto se è una persona vicina, il nostro figlio? Rende più reale la comunicazione, ci rende partecipi alla comunicazione, esattamente così. Cioè, se noi partecipiamo alla comunicazione attivamente, è proprio un segno di partecipazione attiva alla comunicazione. Non è facile, però, non è semplice. Non è semplice perché? Perché implica che noi siamo consapevoli di quello che proviamo. E non è così scontato, Perché molti adulti non sono consapevoli di quello che proviamo. Lasciamo perdere gli adolescenti, ma a volte anche gli adulti. Negli adolescenti tante volte molti sentimenti, molti stati d'animo non vengono riconosciuti. voi sapete che molto spesso la diagnosi, per esempio, di depressione nell'età adolescenziale viene fatta quando l'adolescente non è che sta a letto tutto il giorno, così, oppure piange tutto il giorno, no, spacca tutto. Allora, un sintomo di depressione può essere la rabbia. Si parla in questo caso di sentimenti parassiti. Cosa succede? Che l'adolescente non si dà il permesso di provare certi sentimenti e li copre mascherandoli con dell'altro. E quindi la rabbia molto spesso in adolescenza maschera la tristezza. Ok? Da che cosa è dovuto? Ma dal fatto che magari lui come storia non se lo permette. Dal tipo di educazione che ha avuto, può darsi anche da questo, eh? Però molto spesso in adolescenza questo succede, eh? Succede che la tristezza venga mascherata da rabbia, e quindi la consapevolezza, poi alla fine il lavoro che viene fatto con questa persona è recuperare la consapevolezza della propria tristezza. Capite che non è semplice, eh? Quando l'adolescente sostituisce il disagio, la sofferenza interna con lo spaccare tutto. Sono contenta che stamattina mi hai chiesto se avevo bisogno per la spesa. È rappresentativa, secondo voi? Sì. Io adesso sto esprimendo il mio stato d'animo. Sì, sono contento di una cosa che è successa. Io sono contento. Ok? Quando sei così taciturno mi fai venire nervoso. Secondo voi è rappresentativa questa? Ok, allora, io sto esprimendo uno stato d'animo, però una cosa fondamentale della comunicazione rappresentativa è che io mi devo prendere la responsabilità di quello che provo, ok? Io non posso attribuire a un altro la responsabilità di quello che provo io, ok? Tu mi fai venire il nervoso, sei tu che mi fai venire il nervoso, sei tu che mi fai stare così, ok? Allora, vi ricordate all'inizio il capufficio? Capufficio a me mi ha fatto venire il nervoso, all'altro invece ha fatto fare una risata. Okay? Allora, è importante anche in questo caso dire, vabbè, io mi arrabbio, quando fai così, io mi arrabbio. Allora, è diverso, cioè non è l'altra persona che mi fa venire il nervoso, sono io che mi prendo la responsabilità di quello che sto provando e dico, sì, io questa situazione mi sento così. Ok? Questa è una importante premessa, è una cosa molto importante per esprimere i propri sentimenti, cioè il fatto che io, oltre a esserne consapevole, devo anche prendermene la responsabilità e dire io, Luca, in questa situazione mi prendo la responsabilità di dire che sto così, magari un altro no, però io sì, ok? Ok, quindi è un po' quello che dicevo prima, no? Cioè essere consapevoli delle proprie emozioni quando si comunica è un processo. È proprio un processo, cioè non è semplice, no? A volte è difficile perché la nostra comunicazione interna, tendiamo a interpretare quello che l'altro ci dice, non è semplice. Sta di fatto che quando lo facciamo si crea un circolo virtuoso, cioè chi sta vicino a noi tende a fare le stesse cose. Questa è una cosa che funziona, ve lo assicuro, perché è proprio sperimentato. Cioè se io imparo a comunicare in questo modo, sia non è che devo dire è bello, sono contento di stare qui con te in questo momento, sì, si può dire anche questo, però anche esprimere stati d'animo non belli, spiacevoli. Allora fare questo ed esprimerlo comporta dall'altra persona e l'altra persona una situazione dello stesso tipo, cioè anche lui sarà portato a comunicare in questo modo. E questo è molto importante, proprio il cuore della comunicazione empatica. Ok, allora, un altro aspetto che riguarda un po' il modo di comunicare con noi figli, un po' anche l'atteggiamento che abbiamo noi genitori nei loro confronti, no? Io ho scelto tre atteggiamenti un po' caricaturali, no? Che comunque esistono, perché comunque ho avuto a che fare con questo tipo di persone, no? E a ciascuno di noi, però, a volte, quando si relaziona con i propri figli, può avere questo tipo di atteggiamento. Allora, soprattutto in situazioni di dialogo, di conflitto. Questa che situazione è, secondo voi? È una sfida, è un duello. Questo è il genitore che duella. Il genitore che duella è il genitore che nel dialogo con i figli: ma perché ti metti queste scarpe? Tu con queste scarpacce non ci vai in giro. No, no, io invece ci voglio andare. Invece no, non ci vai. E no, io invece allora non ci vai, allora non ci esci. Allora, questi continui scontri. Molto spesso ci sono delle situazioni familiari, vengono i genitori, in cui il padre spesso si lamenta perché la madre ha questi conflitti, no? E la madre dice: però tu non ci sei mai in casa, sei sempre a lavoro, e poi sono io che devo duellare con mia figlia, no? Allora, l'estremo di questa situazione, il genitore che duella sempre con il proprio figlio, con la propria figlia per ogni cosa, è il genitore che magari si sbatte anche, cioè che comunque si impegna, non che se ne frega, però che comunque mette il dialogo, mette il conflitto sempre a chi vince, chi è il più forte, ok? Ecco, questo in adolescenza è un rischio, eh? È un rischio molto forte. Questo? Questo non duella, questo cos'è? Che genitore è? Il genitore è autoritario, eh? Il genitore che sa tutto, il genitore io so tutto, è il genitore che dice: ma io so tutto della psicologia, io so tutto della psicologia dell'adolescente, io so che adesso tu sei così perché stai vivendo un momento di transizione, so che però poi crescerai, vedrai che cambierai, so che adesso tu hai bisogno di metterti le scarpacce, i pantaloni con gli strappi, lo so perché gli adolescenti, ok? Allora, il genitore che si comporta in questo modo è un po' il genitore che in qualche modo trasmette al proprio figlio che l'amore è qualcosa che si merita. Non è un dono, ma l'amore è qualcosa che si merita. È il genitore che dice: tu per meritare il mio amore devi essere perfetto. Ci sono dei ragazzi che vengono da me che hanno proprio questa cosa nella pancia, no? Che hanno proprio il terrore di non essere perfetti, no? Io per sentirmi bene devo essere perfetto, no? E i genitori, quando parlo, molto spesso hanno questo atteggiamento, no? Cioè lui deve essere perfetto, deve essere il primo della classe, deve essere il primo, ok? Capite che una relazione di questo tipo è una relazione che ha molto pensiero ma poco sentimento, ok? E questo è un altro rischio, no? Cioè il fatto che il genitore pensa di essere competente solo perché ha studiato, perché sa tutto dell'adolescenza a livello cerebrale, però in realtà non ci mette la pancia nella relazione, ok? Sono quei genitori, appunto, che leggono un sacco di libri. Io ho in mente una mamma che dice: no, ma questa cosa la so, me l'ha già detta, sì, questa cosa la so, l'ho già letta, sì, ho visto anche la trasmissione, sì. Però in realtà poi non ci mette l'empatia, non ci mette la pancia, l'emozione nella relazione col figlio. E questa? Avete visto il film? Beh, non è la sua vera mamma, come sapete, però... Allora, questo è il genitore che manipola, il genitore che manovra. Allora, mentre il genitore di prima era il genitore che leggeva i libri, la sera andava a ascoltare gli psicologi, no, scherzo ovviamente, questo genitore qua è un genitore che va a sbirciare il profilo su Facebook, è il genitore che magari va a guardare l'agenda, oppure che magari telefona all'amica per sapere notizie, che agisce tanto sul senso di colpa, ok? Allora, un genitore di questo tipo è il genitore che pensa che l'amore equivalga alla fusione, equivalga alla fusione, alla simbiosi, ok? Sono genitori che non permettono che il figlio si stacchi. E questo anche dal punto di vista sessuale. Io 2 settimane fa ho avuto un colloquio con una coppia di sposi che hanno una figlia, e che mi dicevano che quando avevano così detto ai genitori di lui che aspettavano un bambino, no? La mamma di lui aveva voluto assolutamente a tutti i costi sapere quando era stato il momento del concepimento. Esattamente. Perché volevano capire così la situazione, ma è stata quando avete fatto la gita a Venezia. Allora, questo è proprio quello che vi sto dicendo, cioè il non concepire l'amore come anche qualcosa che comporta una separazione, no? In questo caso proprio c'era una fusione tra il figlio e la madre, no? Una fusione tale per cui il figlio, per potersene andare di casa, ha dovuto mettere incinta. Ha dovuto mettere incinta la moglie, ok? Chiaramente non l'ha fatto apposta, però l'inconscio sapete come lavora, eh? Ok? Quindi in questa situazione, molto spesso si hanno ragazzi che passano da una dipendenza, che è quella materna, a un'altra dipendenza, eh? Quindi cercano una nuova relazione che magari è ancora più dipendente nei confronti del ragazzo, della ragazza, proprio per cercare di separarsi da una relazione, da una simbiosi materna che non riescono più a tollerare. Quindi in questo caso, mentre prima noi avevamo il genitore che vieni dietro di me, vieni dietro che ti conduco io, qui dietro invece abbiamo una mamma che manovra da dietro, eh? Vai di qua, vai di là, ok? Però sono sempre due modi di condurre, eh? Una da dietro e una da davanti. E voi mi direte, allora il genitore giusto qual è? Il genitore giusto è quello che si mette a fianco, eh? Il genitore in cammino, ok? È chiaro che non esiste, ciascuno di noi ha una propria esperienza, una propria storia, no? Però il genitore che coopera, il genitore che sta insieme, che sta a fianco al proprio figlio, è il genitore che lavora in maniera corretta, eh? Intimità, che cosa vuol dire? Intimità è abitare presso l'altro mantenendo la propria identità, ok? Cosa significa? Io so tutto di te, io ti conosco bene, eh? Io mi posso anche permettere di abitare presso di te, cosa vuol dire? Di starti vicino, di stare con te, di conoscere tutto di te, però mantengo la mia intimità. Io quando ero adolescente mi piaceva un sacco un libro, Il Profeta, di Gibran, no? E mi ricordo che questo libro, quando parlava della relazione di coppia, diceva, siate come le corde di una chitarra. Io da chitarrista subito mi ero illuminato, no? Siate come le corde della chitarra, che fanno una melodia, fanno una bellissima melodia, però rimangono sempre separate, e questo è molto importante, no? Proprio perché è fondamentale nell'intimità, perché l'intimità non si trasforma in fusione anche patologica, riuscire ad avere sempre coscienza che io sono diverso da te, per quanto noi stiamo insieme. Però io sono diverso da te. Questo non vale solo nella relazione con mio figlio, vale anche nella relazione di coppia. Ok? Ok. Ecco, io volevo così, proprio parlando della sessualità, prima ho accennato alla sessualità, volevo accennare proprio a quella che viene definita la metafora della montagna. La metafora della montagna che cos'è? È il fatto che riguardo alle esperienze affettive di nostro figlio, di nostra figlia, le prime esperienze affettive, quale deve essere l'atteggiamento del genitore? Deve essere l'atteggiamento di una persona che prepara il proprio figlio ad affrontare l'esperienza affettiva, proprio come se fosse un viaggio in montagna. Cioè io mi preoccupo dell'equipaggiamento, deve avere degli scarponi attrezzati, il tempo deve essere bello, deve avere tutto, deve avere un buon equipaggiamento, però alla fine parte da solo, è bene che parta da solo, ok? Ci sono troppi, io ho avuto a che fare con troppi genitori che dicevano mi va bene, possono fare quel che vogliono, ma lo fanno a casa mia, ok? È un atteggiamento rischioso, molto rischioso, perché è importante che già da questa età comincino ad avere una propria intimità, eh? Quindi genitori elicottero, quando prima parlavamo di genitori elicottero, i genitori elicottero non possono arrivare fino a lì, è importante che comunque venga riconosciuta un'intimità da parte loro, eh? Ecco, Volevo così concludere con questa immagine, un dipinto di un pittore svizzero. Sapete chi sono? Sono Pietro e Giovanni che corrono al sepolcro. Mi piace tantissimo questo dipinto, un po' perché secondo me le emozioni che trasmettono sono molto complesse, no? Perché c'è dentro la felicità, ma anche la paura che non sia vero, soprattutto nella faccia di Giovanni, no? L'attesa, ma nello stesso tempo anche l'angoscia, no? Mi piace anche l'espressione della persona più anziana, Pietro, no? È praticamente Giovanni che è poco più che adolescente e Pietro che potrebbe essere suo padre, no? E tutti e due non hanno perso la capacità di stupirsi, soprattutto Pietro, no? Ed è un po' quello che io auguro a voi, no? Cioè quello di, come si diceva un po' all'inizio, di mantenere la capacità di stupirsi di fronte alla famiglia, la vostra famiglia che si trasforma, e anche di fronte a vostro figlio che si trasforma, che cresce, no? Da una parte insegnando concretamente a lui che cosa significa amare ed essere amati, e nello stesso tempo non perdendo mai da parte vostra, da parte della coppia, anche genitoriale, la capacità di stupirsi.